La vita sotto il sole è forse solo un sogno? Non è solo l'apparenza di un mondo davanti al mondo? Quello che vedo, sento e odoro, c'è veramente il male e gente veramente cattiva? Se oggi cade male è più difficile rialzarsi. Siamo persi dentro strade dove i sogni sono scomparsi. Sono vicoli ciechi dove non si torna indietro. Ci arrivi piano piano, metro dopo metro. Quella roba ci confonde, mica dopo stiamo meglio. Che è solo un'illusione come un gioco di prestigio. A Milano l'amaro è un veleno da bere. Questo è il posto più pieno di nuvole nere. Ma bello mo mi alzo, non finisce knockout. Voglio stare bene, manco fossi James Brown. Ma devo avere la forza per resistere e combattere. Anche se la sorte nella notte scrive lettere. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. Quante porte in faccia ci riserva questa vita? E come dice Gianni, quanto è dura la salita. Ma se molla adesso non sarà finita. E se ritorno indietro resta sabbia tra le dita. Trascrivilo sui muri il tuo nome da guerriero. Nel buio delle strade, nella notte è ancora più vero. Gli sbirri sono allerta, resta attento alle sirene. Meglio un pezzo sopra i muri che merda nelle vene. Bro, devi farti un viaggio fuori da sti scazzi. Ti guiderà il tuo angelo dall'alto dei palazzi. Il cielo su Milano può diventare grigio, ma il calore di un amico qui può essere un rifugio. Non servono le ali, qui ci vogliono le spalle. Non senti quel rumore, è il tuo angelo che piange. Lotta con il cuore fino all'ultimo respiro. Proteggi il tuo angelo per rimanere vivo. Vivo, vivo, vivo. Di avere fiducia, ma mi ha stretta ad un angolo con la vita che brucia. Se sei in bilico ti spingono per buttarti giù. Siamo noi eroi, noi gli stronzi alla TV. Ma tu rimani tu, zero compromessi. Perché il diavolo ci compra, poi ci vende a pezzi. Qui tra cazzi e mazzi tocca stringere i lacci. Ogni angolo che intorno è solo un posto di pasticci. Ma andare fino in fondo qui può essere un motivo. La strada è solo una, qui non c'è diversivo. Col rap mi esprimo, il beat lo comprimo. Zero storia gangsta, solo quello che vivo. Il sogno che hai dentro è come un tesoro. Ti spara dal petto, proiettili d'oro. E ora pompa il ghetto blaster e forma la tua crew. Lascia stare brutte storie, il tuo angelo lo sei tu, lo sei tu. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, chiama il tuo angelo. E quando un sogno muore, non andare mai.